Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria sono oggi molti e sono anche molto di carattere italiano. Perché? Beh, andiamo con ordine, in ordine cronologico inverso, e cioè l'ultima notizia, come vi ha già raccontato il nostro GR, riguarda il famoso decreto salva Parmalat, o come lo chiamano altri, antiopa straniera. Allora, dopo che il Consiglio dei Ministri era uscito con un decreto poi da far diventare attuativo, poco fa, un'ora fa esattamente, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministro dell'Economia e delle Finanze a predisporre ed attivare strumenti di finanziamento e capitalizzazione analoghi a quelli di altri paesi europei, mirati ad assumere partecipazioni in società di interesse nazionale. Ossia, tradotto, vuol dire che il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero del Tesoro a entrare nel capitale di alcune società italiane, per quanto private, definite e ritenute di interesse nazionale in termini di strategicità del settore o dei livelli occupazionali, che vuol dire un po' tutto, perché se metti il settore ma anche il livello occupazionale, può essere un settore non strategico come l'aerospazio difesa è o l'energia è, o le telecomunicazioni, ma ad alta occupazione. Mi chiedo, così come provocazione, se questo valga anche per la Fiat. Comunque, si legge nella nota di Palazzo Chigi che Parmalat è inclusa nella casistica di cui sopra. In questo momento quindi le porte per Lactalis si chiudono, nel senso che Lactalis o sale in Parmalat, però avrebbe una norma contraria del Ministero, e lancia un'OPA, ma in questo momento al 29%. Se il Tesoro entrerà in Parmalat con una quota di rilievo, è chiaro che Lactalis probabilmente abbandonerà il progetto di controllo di Parmalat, anche perché una quota del genere, che può essere, alcuni vedo già che scrivono come la Golden Share di una volta, è una quota che di fatto vincola moltissimo la gestione dell'impresa. Ancora però il sottosegretario all'economia Sonia Viale ha spiegato che alla data odierna la partecipazione complessiva del gruppo Lactalis in Parmalat non ha mai superato il 30%. Lactalis ha spiegato poco fa che la loro quota non è di controllo, e insomma di questo parleremo, e questo è anche il primo aspetto. Secondo aspetto invece della giornata riguarda i cosiddetti stress test, ossia i test che vengono fatti sulle banche per vedere come reagirebbero nei casi peggiori. Un po' abbiamo paragonato gli stress test che vengono fatti per le strutture, per le infrastrutture, per i ponti piuttosto che altre infrastrutture. Allora, oggi tra 20 minuti dovrebbero uscire i risultati degli stress test irlandesi. L'opinione prevalente è che usciranno dei risultati negativi, o meglio, che metteranno in luce una forte fragilità delle banche irlandesi, e che il governo irlandese sarà in qualche modo obbligato a nazionalizzare le altre due banche che ancora non sono state nazionalizzate di fatto. Mi riferisco alla Bank of Ireland e a Irish Life. Dublino infatti ha già salvato dalla bancarotta, e quindi se le comprate la famosa Allied Irish Bank Anglo Irish Bank. Per Anglo Irish Bank Dublino ha messo dentro 35 miliardi di euro. Ora fate le proporzioni con l'Irlanda, è un sesto dell'Italia, è come se noi avessimo buttato dentro una banca qualcosa come 200 miliardi di euro. E per Allied Irish Bank anche qui il governo di Dublino ha messo dentro 16 miliardi. Fate le proporzioni, è come se ne avessimo speso complessivamente quasi 300 miliardi di euro per salvare due banche. Se si sommano tutti gli esborsi del governo irlandese per salvare le banche, fino adesso siamo a 100 miliardi, cifra, ripeto, diamo le proporzioni alle cose, cifra stratosferica, come se noi avessimo speso 500 miliardi per salvare le banche. Ecco, potrebbe dover salvare le altre due che mancano, Bank of Ireland e Irish Life, il primo ascoltatore che mi chiede oggi se ci sono buone notizie, riceverà una risposta poco cortese. E invece sul mercato meno 1%, Milano meno 0,60, Parigi invariata, Francoforte, Londra più 0,20, euro su dollaro a quota 1,41,85. Le banche sono di nuovo sotto pressione, questa volta è anche però il turno dei grandi istituti. Intesa San Paolo meno 4%, Unicredito meno 3,31, Popolare di Milano meno 3% e Monte dei Paschi meno 2,5%, Fondiaria Assai meno 2,82%. Citiamo anche Fiat che perde il 2%, Fiat intesa come Fiat Auto, ed Steam Microelectronics che perde l'1,90%. Chi va bene? Parmalat più 1,71%, Saipem più 1,56%, Diasorin più 1%, Tods più 0,85%. Non mi resta che ricordare il numero per i vostri SMS: 349-238-6666. I temi sono quindi stress test sulle banche irlandesi, partecipazione del governo nelle imprese e anche però i temi di occupazionali. Oggi infatti ci sono diverse notizie, alcune devo dire anche positive. Allora iniziamo subito con le notizie in breve. Solo un'aggiunta sulle notizie di carattere europeo per quello che riguarda le tensioni sui debiti sovrani. È schizzato un nuovo record il rendimento dei titoli portoghesi. Addirittura i titoli a 2 anni rendono di più di quelli a 10 anni. È la prima volta dal 2006. Non è una bella notizia, perché vuol dire che si ritiene che le fragilità saranno più a breve che a lungo termine. Comunque sopra l'8%, all'8,15%, e anche lo spread con quanto rende, la differenza con quanto rende l'uguale obbligazione tedesca è volata a un nuovo record, 500 punti. E tra l'altro tra i problemi del Portogallo c'è anche l'alta quota di titoli di Stato portoghesi assicurati attraverso i cosiddetti credit default swaps, cioè quelle assicurazioni che uno compra quando uno compra un debito, cioè un titolo di Stato, poi come quando uno compra una macchina, nel caso le cose dovessero andare male si compra anche l'assicurazione su questi titoli di Stato. Beh, pensate che valgono 57 miliardi queste assicurazioni su circa 200 miliardi, cioè 57 miliardi sono assicurati con CDS su 200 miliardi complessivi. E poi il deficit portoghese, che insomma nel 2010 è schizzato all'8,6%, 8,6%, contro un'attesa comunque altissima del governo portoghese del 7,3%. Il Portogallo è ancora senza un governo, cioè c'è un governo dimissionario, il ministro alle finanze ha detto insomma senza modifiche arriveremo al 7% di deficit, però sentiamo il ministro delle finanze portoghese Fernando Teixeira dos Santos oggi a Lisbona dire in sostanza siamo messi peggio oggi di una settimana fa. In primo luogo constatiamo che no che si riferisce al universo delle amministrazioni pubbliche. In primo luogo abbiamo constatato che per quanto riguarda la situazione dei conti pubblici, il deficit nel 2010 è stato del 6,8% del PIL, un risultato che è in linea con le nostre attese e che non tiene conto delle modifiche contabili introdotte a gennaio da Eurostat. Voglio sottolineare che non si è mai interrotto il dialogo tra Eurostat e l'Istituto Nazionale di Statistiche, l'INE. Quest'ultimo, tenendo conto dei parametri fissati da Eurostat, ha fissato il deficit per il 2010 all'8,6%. Un dato che comprende anche l'intervento dello Stato per salvare la banca BPN e 3 imprese di trasporti pubblici. Voglio anche dire che il Portogallo si trova oggi in una situazione peggiore rispetto ad una settimana fa e che tutto risulta un po' più difficile per il Paese. Il governo non ha alcun potere di imporre condizioni o per sollecitare qualsiasi tipo di aiuto esterno. Siamo qui per mantenere un atteggiamento di grande stoicismo per affrontare queste difficoltà e trovare il modo di garantire condizioni di finanziamento fino a quando il nuovo governo entrerà in carica. Per negoziare, seja o che for. Volete sapere dell'oro? L'oro non è, diciamo, a record, però è sempre a 1424 dollari l'oncia. Invece il petrolio è a 105,99 dollari al barile. Ancora, vedo già dei commenti, insomma è incredibile che un governo di destra consideri strategico entrare nei capitali delle aziende private. Lo avesse fatto il centro-sinistra, apriti cielo. Ma guardate, è due settimane che parliamo di questo tema, abbiamo avuto le opinioni più diverse. Chi ritiene che sia sbagliato, perché il problema è l'assenza di capitali stranieri in questo paese e l'eccesso di burocrazia. C'è chi ritiene che invece si debbano salvare i gioielli italiani, sulla base anche del principio di reciprocità. Personalmente, insomma, qualunque cosa che irrigidisca il mercato è sbagliata. Poi soprattutto vi faccio una riflessione, insomma, su Parmalat Banca Intesa sta cercando di creare una cordata alternativa, questa sarebbe la soluzione migliore, una cordata di imprenditori italiani che si prende la Parmalat e quindi annulla l'operazione Lactalis. Ha grosse difficoltà. Anche il caso di Ferrero è un caso in cui non c'è stata tutta questa disponibilità. Allora la riflessione è: ma se gli imprenditori italiani non ci vogliono mettere i soldi nonostante il tentativo di Intesa San Paolo, che dobbiamo fare? Vabbè, cambiamo tema, parliamo di occupazione. C'è qualche buona notizia, infatti, che riguarda da un lato un accordo del gruppo San Pellegrino, cioè del gruppo Nestlé, ma dall'altro c'è anche una buona notizia che arriva dalla Germania, ve l'abbiamo già raccontata, e invece qualche tensione, criticità sul tema dei precari della scuola, perché dopo il risarcimento record stabilito dal Tribunale di Genova adesso potrebbero arrivare altri migliaia di ricorsi. Apriamo questa pagina quindi respirando un secondo, se così possiamo dire, non parlando di debiti sovrani, di tensioni sui mercati e di così, difesa dell'italianità di alcune imprese. Parliamo di occupazione. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo da qualche buona notizia. Allora, buona notizia tedesca: la disoccupazione in Germania è in calo a 3 milioni di disoccupati, è il numero più basso dal giugno del 1992. Praticamente la disoccupazione in Germania è scesa al 7,1%, quindi ha recuperato non solo tutto il dato pre-crisi, ma è andata anche avanti, è arrivata appunto ai minimi dal 92. Nel frattempo, fatto discutere, ma insomma è interessante come notizia vedere che in Germania si inizino a individuare modelli di fabbrica per i lavoratori anziani. Perché questo? Perché gli studi demografici prevedono che nel 2050 il 40% dei tedeschi avrà più di 60 anni. E aumentando l'età pensionabile, parliamoci chiaro, insomma, se li fai stare di più al lavoro e la gente per fortuna vive di più, ti troverai con dipendenti, operai più anziani. Su che cosa stanno ragionando le aziende tedesche? Vogliono adattare il luogo di lavoro all'età di chi ci lavorerà. In Germania, infatti, il governo ha già deciso di portare l'età pensionabile da 65 a 67 anni. E allora, nella Renania-Palatinato, a Neustadt, la società BorgWarner, che produce turbocompressori per le principali case automobilistiche tedesche, non si limita a proporre visite mediche, ma migliora l'illuminazione degli uffici. L'anziano ci vede un po' meno bene. Delle catene di montaggio, organizza seminari professionali, adatta gli orari all'età delle persone, praticamente ha introdotto in maniera molto forte l'ergonomia dentro la fabbrica, per cui è più facile anche muoversi, sollevatori, tapis roulant, rulli trasportatori, tutto con l'obiettivo di venire incontro a chi ha un'età più non più giovane. E questo è il fronte tedesco, però mi sembra importante perché la fabbrica rispecchia anche quello che è il mutamento sociale. Anche noi cerchiamo di andare oltre le classiche relazioni industriali che ricordano più gli anni 70 e 80 che non, Che no, no, no, vi prego, non fate battute offensive per gli anziani, su. Al lavoro con il pappagallo non c'entra proprio nulla. Qui si tratta di prendere atto di una persona che ha 65 anni e in piena ancora attività lavorativa, perché col cavolo che possiamo definire gli anziani a 65 anni, a cui viene chiesto di lavorare, che può però avere qualche bisogno differente rispetto a un trentenne, no? E poi veniamo al gruppo San Pellegrino. Perché? Perché oltre l'80% dei lavoratori dello stabilimento di San Pellegrino Terme ha detto sì al lavoro domenicale, e questo sì si lega al fatto che poi nel frattempo l'azienda investirà 30 milioni di euro per lo sviluppo del sito produttivo bergamasco e assumerà 33 lavoratori a tempo indeterminato. Gianluigi Toia è il responsabile delle relazioni industriali del gruppo Nestlé, che controlla San Pellegrino. Buonasera, dottore. Buonasera a lei, ascoltatori. No, sorrido perché c'è chi dice anche introdurranno anche le badanti. Ragazzi, stiamo parlando di lavoratori di 65 anni, ma li troviamo in discoteche 65 anni e in giro in biciclette, sono più sportivi del sottoscritto delle volte. Ma di cosa stiamo parlando? Parliamo di come cambia anche il modello produttivo. Del resto qui il tasso di natalità in Italia è bassissimo, allora o immaginiamo solo che solo gli extracomunitari lavorino nelle nostre fabbriche, o immaginiamo che dovendo stare al lavoro fino a 65-67 anni qualcosa si possa anche adattare. Comunque mi dia un primo commento su questo, però Toia, poi arriviamo alla San Pellegrino. La convince quello che stanno facendo in Germania, cioè adattare la fabbrica all'età anagrafica di chi ci lavorerà? Sicuramente è una cosa interessante, bisogna pensare che le situazioni ergonomiche devono essere adattate rispetto alla popolazione che si ha, quindi perché no, è una nuova frontiera da esplorare. Ecco, e va bene, perfetto, vedo anche altri messaggi che continuano a scherzare, va bene, andiamo invece avanti con il vostro caso. Sì. Allora voi avete, ci mancherebbe, come Nestlé avete tanti marchi, San Pellegrino, Acquapanna, Levissima, Nestlé Vera, Recoare, va bene. E la San Pellegrino è la più grande realtà nel campo del beverage, delle bevande in Italia, perché non fa solo acqua, ma fa aperitivi, bibite, tè freddi. Vabbè. Avete dipendenti, 1700 persone, se mi corregga se sbaglio, come gruppo, 900 milioni quasi, 870 di fatturato, presenti in 120 paesi, uno dei marchi più conosciuti italiani all'estero. Non eravate in uno stato di crisi aziendale, chiedo, prima di iniziare questa trattativa? No, non eravamo in uno stato di crisi aziendale, anzi siamo in uno stato di salute, soprattutto sul marchio San Pellegrino e soprattutto sull'unità produttiva di San Pellegrino Terme, perché i volumi vanno molto bene, sono cresciuti soprattutto all'estero e quindi abbiamo necessità di espandere la capacità produttiva. E a quel punto che cosa avete chiesto alle rappresentanze sindacali, quindi all'assemblea dei lavoratori della San Pellegrino? Ma sostanzialmente noi abbiamo chiesto di fare uno sforzo eccezionale, perché in questo momento dobbiamo servire i mercati esteri e la capacità produttiva è ancora limitata. Abbiamo varato un piano di investimento che vuol dire nuove linee più veloci, vuol dire quindi avere capacità superiore, e da lì a quando saremo a regime avremo bisogno di ricorrere anche al lavoro domenicale per non far mancare il prodotto, ma dopodiché non è il nostro obiettivo lavorare la domenica, il nostro obiettivo è produrre di più e quindi con gli investimenti riusciremo ad arrivare al regime. Domanda, ma non si riusciva a produrre di più assumendo di più senza fare il lavoro domenicale? Il problema sono le linee, avendo più linee sì, ma le linee sono limitate, quindi stiamo utilizzando al massimo, quindi assumere più non era possibile. Cioè, se no avreste dovuto fare un problema di capacità produttiva. Avreste dovuto fare un investimento anche sulle linee a quel punto? Ma infatti è quello che abbiamo in programma, solo che da qui a quando si costruisce, si installa una nuova linea, passa del tempo. Nel frattempo deve pensare che dobbiamo fermare la linea vecchia, quindi fare pre-stock per non far mancare il prodotto. Quindi è una questione anche di carattere tecnologico. Allora, quindi insomma, voi avete detto ai sindacati della San Pellegrino, dobbiamo produrre di più, il tempo che ci mettiamo a introdurre le nuove linee diventa un costo economico, abbiamo bisogno comunque di aumentare la produzione anche con le linee attuali, se mi corregga se sbaglio. Sì, soprattutto perché rischieremmo altrimenti di non servire i clienti e farli servire a qualcun altro. Quindi. Ok, e quindi avete chiesto che cosa? Di lavorare la domenica, no? Abbiamo richiesto la possibilità di lavorare la domenica a fronte dell'esigenza produttiva, quindi non tutte le domeniche, ma quando è necessario per... Allora, siccome noi siamo reduci da una trattativa estenuante tra la Fiat e i sindacati, in cui per i turni in più è venuto fuori di tutto, referendum Mirafiori, domanda, come avete fatto a convincerli a lavorare la domenica? Ma noi abbiamo sostanzialmente scambiato con maggiore occupazione, perché come tutte le aziende del settore noi abbiamo dei picchi stagionali, per cui durante il periodo di stagionalità assumiamo delle persone a tempo determinato. Noi trasformeremo parte di queste persone a tempo determinato in tempo indeterminato, ma part time, avendo comunque delle condizioni di flessibilità, ma a fronte di un contratto non precario. Quindi il concetto è: la flessibilità è necessaria perché il prodotto ha una stagionalità, il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato. E quindi il lavoratore può lavorare, viene assunto per 30 ore medie in corso d'anno e può lavorare da 40 ore o addirittura 48 se necessario, a zero ore fuori stagione. Ecco, mi dica una cosa, secondo lei cos'è che ha convinto i sindacati? Il fatto che avreste fatto 33 assunzioni non appunto interinali ma a tempo indeterminato e quindi una solidarietà diciamo verso l'esterno? O questo avete... è stato un elemento importante e decisivo e poi c'è stato anche ovviamente la prospettiva di un investimento che renderà non più necessario il lavoro domenicale. Per curiosità, quanto guadagnerà in più il dipendente, l'operaio della San Pellegrino che lavorerà la domenica? Ma avrà una maggiorazione del 50% sulla domenica e poi avrà un gettone di presenza ulteriore, quindi condizioni migliorative rispetto al contratto nazionale che abbiamo concordato al tavolo locale. Allora, visto che in questo programma noi parliamo di casi singoli per dare però così un messaggio o comunque un riferimento generale, ai suoi colleghi, ma anche ai sindacalisti in ascolto, agli imprenditori in ascolto, lei che consiglio si sentirebbe di dare? Insomma, lei gestisce le relazioni industriali di un gruppo enorme come la Nestlé in Italia, siete riusciti a far passare con un accordo totale, questa è la buona notizia di oggi, un accordo totale l'introduzione della domenica lavorata, che non è una cosa facilissima nella vita, giustamente anche perché insomma, a nessuno fa piacere lavorare la domenica, mettiamocela e diciamola tutta. Se lei dovesse dare un messaggio, una lezione forse troppo così presuntuoso, ma insomma da qualcosa si può imparare da questa vicenda, cioè che la trattativa l'avete condotta in che modo, l'atteggiamento nei confronti dei sindacati, non avete usato forse l'out, mi dica. Ma guardi, intanto è difficile, non voglio dare lezioni a nessuno perché gliel'ho chiesta le io situazioni tanto. Sono sempre diverse l'una dall'altra, però credo che gli elementi importanti siano stati quelli di aver fatto una trattativa cercando di avere un obiettivo comune. L'obiettivo comune era lo sviluppo della capacità produttiva e quindi il successo di San Pellegrino in Italia e all'estero. A fronte di questo nascono delle esigenze e quindi si cerca di avere un'attenzione alle persone che poi il lavoro dovranno effettivamente fare, quindi trovare delle condizioni che possano pagare questo disagio delle persone. E soprattutto però quello che conta è la prospettiva di sviluppo, la prospettiva che puoi dare alle persone per continuare a lavorare in questo. Quindi anche aver detto se facciamo così investiremo poi in macchinari, in linee di produzione, quindi uno ha la garanzia che il lavoro non è a rischio nei prossimi anni, ho capito bene? Esattamente. Mi scusi, un'ultima nota forse tecnica, ma quando uno lavora la domenica poi lo recupera quel giorno? Sicuramente non può fare 7 giorni consecutivi, quindi smette e recupera. Va bene tutto, ovviamente. A seconda dei tipi di contratti, i contratti part-time hanno una flessibilità che è tutta loro, le persone che sono invece a 40 ore normali ovviamente recuperano il giorno festivo. Vabbè, complimenti non a lei, ma diciamo alla maturità delle parti, cioè l'azienda che le rappresenta, i sindacati, i lavoratori in primo luogo, che poi sono quelli che devono... Devo dire che il sindacato nell'alimentare in genere è abituato a dare questo tipo di prove di maturità, quindi... Mi fa piacere che una grossa, chi ha la responsabilità delle relazioni industriali abbia questo giudizio della sua controparte. E complimenti soprattutto ai lavoratori, perché è un gesto, visto che poi la domenica è la loro, la rinuncia è la loro, alla così, serietà dimostrata e anche alla capacità di guardare non solo all'immediato ma alle prospettive generali. Magari in un futuro potremmo anche fare la compartecipazione degli utili? Chi lo sa? Mi permetto intanto un complimento al brand San Pellegrino. Noi siamo un'azienda straniera, ma un gioiello italiano lo stiamo valorizzando. Visto il discorso che si faceva prima sull'Actalis. Siete strani, perché a quel tempo, quando la Nestella comprò, non c'erano ancora le barriere anti-OPA. Adesso sarebbe più difficile. Comunque avete ragione nel far notare che un gruppo può essere straniero e valorizzare i marchi italiani. Su questo non ci sono dubbi. La San Investendo in Italia. Investendo quindi. In Italia, la San Pellegrino è uno dei marchi più conosciuti nelle acque a livello mondiale. Per cui io su questo la penso come ai tempi delle banche. L'italianità di Fazio non mi convinceva allora, non mi convince l'italianità adesso di Parmalat come settore strategico. Comunque questa è una mia opinione che nulla conta. Grazie al responsabile delle relazioni industriali del gruppo Nestlé, Gianluigi Toia. La ringrazio, arrivederci. E faccio i complimenti ai dipendenti soprattutto. Senz'altro. Grazie. Ok. Parliamo subito di borsa, perché voglio commentare la borsa e poi andare sugli stress test. Se stanno uscendo ve li daremo in diretta. Eccoli qua gli stress test irlandesi, sono appena usciti. Allora, servono complessivamente 24 miliardi di euro alle banche irlandesi in più, e questa è l'unica cosa che vi posso dire, perché la notizia finisce così. Allora andrei con ordine, farei i mercati finanziari, poi vediamo se riusciamo a collegarci con Londra per capire le reazioni anche a livello irlandese, e poi il tema grosso del Consiglio dei Ministri, che ha dato via libera al Ministero dell'Economia e quindi alla Cassa Depositi e Prestiti, che è il braccio finanziario del Ministero dell'Economia, a entrare con quote di capitale nelle aziende, anche private, anzi private, ritenute però operanti in settori strategici o ad alta occupazione. La nota di Palazzo Chigi precisa che Parmalat è inclusa. A mio avviso è interessante questa cosa dell'alto livello occupazionale, perché cambia anche un po' il perimetro, non è solo il settore ma è anche quanti dipendenti hai, ed è una norma che a mio avviso non passerà mai in Europa, però vedremo, vedremo. Intanto la borsa. Eccoci pronti, vedo che Fabio mi mancava, chiede di sapere quando andrò io in pensione o quando mi dimetterò. Adesso ripeto, ci sto pensando, mi faccio un attimo fare il programma e poi vediamo. Meno 1,24% Milano, meno 0,22% Francoforte, meno 0,80% Parigi, meno 0,1% Londra. L'America è invariata, l'euro si è rafforzato e non poco, adesso cerchiamo di capire anche perché, a quota 1,42% nei confronti del dollaro. Milano è decisamente la peggiore, il motivo anche oggi si chiama banche, ma questa volta banche grosse, ossia le prime due, meno 4,50% Intesa San Paolo, meno 3,70% Unicredito, meno 3,30% Popolare di Milano, Monte dei Paschi meno 2,60%, Ubibanca meno 1,5%, segnalo anche Fondiere Assai meno 2,90%, Fiat meno 2,70%. Chi va bene? Parmalat più 1,20%, Saipem più 1,20%, Tods più 1% e poi Fiat Camion e Trattori, ossia Industrial più 0,90%. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Oh, adesso facciamo una lunga pagina di borsa, nel senso che auguri. Allora vorrei capire intanto l'effetto stress test o rischi sullo stress test irlandese sulle banche italiane, oppure il caso è ancora nazionale, cioè aumenti di capitale previsti. Allora, bisogna dire che il settore europeo delle banche oggi ha perso oltre l'1,8%, quindi comunque è stato tutto il settore ad andare male. Le nostre banche hanno fatto peggio, appunto Intesa San Paolo è la peggiore con meno 4,5%. 5%. Oggi in realtà vi sono vari fattori. Allora, da una parte, già questa mattina l'annuncio di Moody's che non ha escluso nuovi declassamenti di altri paesi della zona euro, quindi questo inficia soprattutto su titoli finanziari. Dall'altro, appunto, l'esito degli stress test, che comunque è in linea alle previsioni del Fondo Monetario Internazionale dell'Unione Europea, e dall'altro ovviamente i soliti timori su nuove ricapitalizzazioni proprio in Italia, quindi a Piazza Affari. Allora, andiamo avanti. Terna, -0,24, volete sapere il dato. Su Parmalat come la leggiamo? Perché insomma il fatto che entri la Cassa Depositi e Prestiti, in teoria uno potrebbe dire, beh, ma se non c'è una OPA contro OPA, il titolo dovrebbe afflosciarsi, invece? Ma in realtà credo che le speculazioni siano sempre sulla battaglia, no, per la nomina dei vertici della Parmalat, sulle scommesse, sulle mosse di Lactalis, e dall'altra parte sulle mosse appunto dei soggetti italiani. Oggi comunque Lactalis ha comunicato di aver già avuto contatti con l'Unione Europea per spiegare appunto all'Unione Europea che l'ingresso nel capitale della Parmalat con il 29%, e oggi effettivamente Lactalis detiene quella quota, non può essere considerato come un'acquisizione del controllo della società, e per questo non vi era necessità di una notifica preventiva. Comunque le speculazioni riguardano, cioè sono inerenti ai vari soggetti che potranno entrare in campo, e domani ricordiamo che appunto c'è il CDA che dovrà deliberare in merito, cioè decidere in merito al possibile rinvio dell'assemblea. Qualche titolo positivo oltre a Parmalat c'è? Mi riferisco a Saipem, Todds, ma anche DMT, che già ieri aveva fatto faville, e poi anche altri titoli, penso a Class Editori più 17, Mondo TV più 7,3, Poltrona Frau più 6,37%. Di questo però parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms, una risposta ad alcuni ascoltatori. Nessuno ha mai detto in questo programma, in 10 anni che lo conduco, che le aziende di Stato siano mal gestite, anzi abbiamo detto spesso che i grandi gruppi che restano in questo paese sono quasi tutti partecipati dallo Stato, Eni, Enel, le controllate varie, Terna a suo tempo, Snam, Saipem e Finmeccanica con le varie controllate, sono oggettivamente dei gioielli, non gioiellini perché sono anche grosse. Si sta solo dicendo se ha senso entrare nel capitale di società private e in qualche modo creare un elemento distorsivo sul mercato. Poi uno può obiettare, sì, ma in questo modo ci comprano i francesi e i cinesi perché tanto ne abbiamo piccole dimensioni. Vabbè, è un'obiezione, ne parliamo 2 settimane. Prada, tra l'altro, oggi è chiarito quando sbarca sulla borsa, cioè che Prada sbarchi sulla borsa, e ci mancherebbe, a Hong Kong? Allora, oggi... Non l'hai capita questa? No, non ti ha fatto ridere? No, non l'ho capito. Che Prada sbarchi sulla borsa. No. Vabbè, andiamo avanti, dai, che oggi è già una giornata di quello. Allora, Prada praticamente ha confermato l'indiscrezione delle ultime settimane dicendo che praticamente introdurrà la borsa di Hong Kong il 20%. Del proprio capitale, il gruppo sarà valorizzato oltre 8 miliardi di euro, scusate. No, in realtà non è quanto ha confermato il gruppo, ma quanto comunque hanno confermato fonti finanziarie. In realtà però la società non ha comunicato né la data effettiva né l'ammontare del capitale. Sì, però insomma, il Prada si quota sul listino asiatico, da quello che si capisce sarebbe stato riconosciuto all'azienda un valore di quasi 8 miliardi di euro, per cui non poca roba. Comunque, torniamo invece ai titoli quotati. Diasorin. Sì, allora Diasorin ha chiuso anche oggi in territorio positivo, ha beneficiato, come ha guadagnato lo 0,8%, e ha beneficiato come alla vigilia di alcune stime positive del mercato, e queste stime riguardano in particolare la crescita degli utili per il 2011, ma non solo, anche per il 2012-2015. E infatti, secondo il mercato, secondo gli operatori, il tasso di crescita degli utili supererà le indicazioni che erano state fornite dalla società, che erano per un rialzo intorno al 12%, e rallenteranno le vendite del test della vitamina D, che è appunto il prodotto forte, ma nel 2015 comunque ha atteso un picco delle vendite, quindi comunque notizie positive. Ultimo titolo, ST Microelectronics. Allora, ST ha chiuso -1,90. Ha chiuso -1,90% sul listino milanese, anche se in realtà a Parigi ha guadagnato terreno. Adesso controllo. Ha perso anche lì il 2,46%. In realtà oggi non sono uscite notizie. Livia, grazie a te, a tutti i colleghi di Radio Cuore del Sole 24 ore. C'è chi dice, insomma, lei come fa a dire che Finmeccanica è un gioiello, ma le vede le quotazioni di borsa, ormai è certo che le arrivino le tangenti da Finmeccanica. No, guardi, mi arrivano direttamente i prodotti, cioè un elicottero, un aereo, un paio di missili e un radar nel giardino. Ma di cosa sta parlando? Finmeccanica ha comprato un gioiello vero che era di RS Technologies, pagandolo caro, ma è il numero uno in America nel settore dell'elettronica da difesa, ha dei veri gioielli al suo interno, vince con Messe, con Ansaldo STS, con Augusta Westland, con Alenia, è piena di ingegneri, ah raga, ma averne. Comunque, cambiamo tema, spostiamoci in Irlanda, ci spostiamo in Irlanda con gli U2, purtroppo non dobbiamo parlare di musica, ma di stress test alle banche irlandesi. €24 miliardi di euro servono alle banche irlandesi, questo è quanto è risultato pochi minuti fa dagli stress test, che non sono, sono è il modo in cui si va a vedere se una banca, come una banca reagirebbe nello scenario peggiore di mercato. 24 miliardi non è poca cosa, anche perché il governo irlandese ha già messo dentro le banche irlandesi, praticamente se le comprate, le ha nazionalizzate, 100 miliardi di euro, dicevo, su un paese che vale più o meno un sesto dell'Italia. È tantissimo, è come se ne avessimo messo più di 500 miliardi di euro. Professor Donato Masciandaro, docente di economia della regolamentazione finanziaria all'Università Bocconi di Milano, nonché editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, dottor Barisoni. Almeno gli U2, diciamo, quelli vanno bene, quelli non creano stress, no? Siamo d'accordo. No. Allora. Personalmente trovo l'esercizio degli stress test, se va bene inutile, se va male dannoso. Oh, partiamo subito, calmi. Allora, mi faccia capire una cosa. Uno, 24 miliardi, ho capito che lei dice o inutile o dannoso, ma sono tanti o pochi secondo lei in un governo che ha già messo 100 di miliardi dentro e che molti vedono dover ormai salvare anche Bank of Ireland e Irish Life, buttandoci dentro altre decine di miliardi? Beh, credo che ormai la situazione per il governo irlandese sarebbe bene fare definitivamente chiarezza, anche perché è evidente che quando c'è una situazione di pericolo di default, a tutti è chiaro che chi presta è lo Stato, cioè il contribuente irlandese. Forse piuttosto che questo stillicidio con gli intervalli degli stress test che danno cattive notizie a intermittenza, forse sarebbe bene fare una doccia fredda e presentare il conto tutto in una volta. Cioè magari agli elettori. Ecco, allora lei dice invece, perché adesso poi ci sono anche quelli italiani, nel frattempo il mercato è libero di speculare, perché quando tu non sai basta una voce, avrà bisogno di più soldi Unicredito, -3,70 oggi, Intesa San Paolo dovrà ricapitalizzare, -4,40 oggi, vale anche per l'Italia. Lei dice invece che arrivare a questi stress test col conto a gocce, che poi non si sa quanto servono, cosa facciamo? Nazionalizziamo le banche irlandesi e non ne parliamo più? Quelle poche che ancora... Credo che un rimedio immediato, anche perché ricordiamoci che poi le dimensioni relative dell'Irlanda, se pensiamo all'Unione Economica e Monetaria, sono dimensioni assolutamente sopportabili. Credo che la trasparenza rispetto a chi è il prestatore ultimo, che è lo Stato, forse renderebbe il sistema meno incerto e probabilmente la somma dei danni totale sarebbe minore di quella attuale. Un po' come fece la Gran Bretagna, che non aspettò gli stress test, si comprò direttamente alcuni dalla Bank of Scotland e la Northern Rock, cioè senza aspettare che vengano massacrate le banche nel frattempo? Sì, soprattutto i non irlandesi avrebbero interesse a questo, oltre che agli elettori irlandesi, perché con questo gioco degli stress test, che ripeto, a me, secondo me non serve a niente. O meglio, a qualcuno serve a politici e autorità di controllo per deresponsabilizzarsi. Gli stress test dovrebbero essere molto feroci, dovrebbero essere fatti su tutte le banche, non su un campione il cui perimetro è sempre opinabile, però dovrebbero essere rigorosamente segreti. Le autorità di controllo da sempre hanno svolto questo ruolo, garantire la stabilità del mercato. Adesso c'è questo cattivo vezzo di deresponsabilizzarsi facendo finta di dare al mercato tutte le informazioni possibili. Abbiamo visto che queste informazioni, per il solo fatto che sono pubbliche, risultano essere poco credibili. Nessuno crede che informazioni davvero negative sarebbero rese pubbliche. Inoltre, sulla debolezza di questo tipo di esercizi quando diventa pubblico, è evidente il risultato della scorsa volta. Ricordiamo le pagelle della scorsa volta? Cos'è successo qualche mese dopo? Qual è la credibilità di questi esercizi? Però siccome fanno comodo a chi gestisce la regolamentazione e occorre in Europa sempre scimmiottare gli americani, anche quando non ce ne sarebbe bisogno, ecco che stiamo danneggiando banche e mercati con questi esercizi. Che, da quello che ho capito nel suo ragionamento, servono anche poco. Lei ha ragione a ricordare che un anno fa uscirono gli stress test, tutti passarono, un po' come la maturità in Italia, passarono gli esami, poi dopo un po' venne fuori di tutto, Grecia, Irlanda, Portogallo e quant'altro. La polvere sotto il tappeto non te la racconta la donna delle pulizie, possiamo dirla così, Masciandaro? Trovo che non abbiamo imparato niente da quello che è successo e trovo che le strade che abbiamo preso, se va bene, fanno comodo a un tipo di banca, che è quello anglosassone, e purtroppo fanno male invece alle banche di tipo continentali, soprattutto quelle italiane. Visto l'alto numero di messaggi che sono arrivati e anche telefonate al centralino sul tema delle banche, di quello che è successo in Irlanda con gli stress test, oggi di nuovo sotto pressione le banche anche italiane, abbiamo richiamato, e lo ringrazio anche per la disponibilità, il professor Masciandaro, che ci aveva appena salutato. Professore, buonasera di nuovo. Rieccoci, buonasera. Ha avuto un tale successo che, insomma. Allora, no, la domanda che hanno fatto in molti, però, è: va bene, se gli stress test non servono o sono addirittura fuorvianti, come dice lei, perché vengono utilizzati per interessi di parte e soprattutto rischiano di creare uno stillicidio di informazioni e lasciare praterie alla speculazione. Molti ascoltatori hanno chiesto: va bene, ma allora che cosa si dovrebbe fare? Perché lì sul principio dell'Irlanda mi sembra chiaro che il governo dovrà procedere, tanto lo sta già facendo, a una nazionalizzazione delle banche mancanti. Ma a livello europeo, nel caso di quelli italiani, visto che se non ricordo male a giugno usciranno anche quelli italiani, il suo così, suggerimento o consiglio qual è? Allora, prima osservazione, il successo di certe affermazioni è il successo che ebbe il bambino quando disse il re è nudo, nel senso è qualcosa che tutti sanno, solo che nessuno dice, quindi questa è la ragione del successo. Che cosa si deve fare? Allora, gli stress test sono delle simulazioni che più sofisticate sono, più si reggono su un numero di ipotesi più o meno alto, quindi sono esercizi da addetti ai lavori. Chi sono gli addetti ai lavori? Gli addetti ai lavori sono le autorità di vigilanza. Loro hanno la responsabilità non di gestire le crisi, ma di prevenire le crisi. Allora, gli stress test devono essere degli strumenti i più raffinati possibili, i più feroci possibili, ma devono essere degli strumenti delle autorità di controllo, che devono farli non su un campione di banche, devono farli su tutte le banche, ma devono essere rigorosamente riservati. Dopodiché, se una banca non passa lo stress test, gli si convocano i vertici e gli si dà la ricetta. Questo è quello che dovrebbe fare un paese che ha visto che i coefficienti capitali, se poi la crisi accade davvero, non servono a niente. Quindi le crisi vanno anticipate, e vanno anticipate lavorando banca per banca, perché poi abbiamo visto che individuare le banche sistematicamente rilevanti è uno strano esercizio. Capisci che uno sistematicamente rilevante solo quando la crisi è già successa. Quindi in realtà le simulazioni, gli stress test, andrebbero fatti su tutti, ma dovrebbe essere un lavoro delle autorità di vigilanza. Non far finta, dare l'illusione che un certo campione di banche riesce a reggere questi esercizi più o meno esoterici, che per poi alla fine che cosa vediamo? Vediamo qualche numerino e gli addetti ai lavori sanno benissimo che in realtà c'è una serie di ipotesi che andrebbero esplicitate. Quindi, e lo ripeto, un esercizio che se va bene è inutile, non dice niente, e se va male dà danni. Guardiamo quello che sta succedendo alle banche italiane. Lei, mi voglio collegare a una cosa che lei ha detto prima, il fondo strategico. Lei parlava delle imprese. No, il fondo strategico andrebbe fatto per le banche. Nel senso che il nostro governo dovrebbe dire, signori, il nostro sistema bancario è sano. In presenza di oscillazioni noi siamo disposti ad intervenire. Ricordo che un annuncio di questo tipo fu fatto nel 2008. Lo Stato italiano non ha avuto bisogno di intervenire, è bastato l'annuncio. Quindi, piuttosto che fare i giochettini con gli stress test, forse sarebbe bene fare delle cose serie. No, adesso ho capito molto bene il punto. Quando le dice l'autorità di vigilanza, intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea o tutte e due? Ma il problema è la Banca d'Italia non esiste più, nel senso che è la BCE, il disegno delle regole, la banca non esiste più da un punto di vista di soggetto regolamentare. Draghi, sì. Le regole sono tutte importate. Il difetto è nel manico, il difetto è nell'Europa. La ragione poi per cui l'Europa ha deciso di scimmiottare gli americani, possiamo anche parlare, ma forse servirebbe una trasmissione apposta. No, è chiarissimo, e devo dire che ha ragione nel ricordare che nel 2008 bastò la garanzia dello Stato sulle banche per evitare qualunque tipo di tracollo. Devo anche dire che se continuiamo così poi non si capisce, anche noi stiamo inseguendo perché le riportiamo informazioni continue, dovranno fare l'aumento di capitale, no, non lo devono fare, sì, sono sane, no, non sono sane. Devo dire infine, e mi trovo in imbarazzo da sempre da ragione così tanto all'ospite, che sono d'accordo con lei quando dice tanto la banca rilevante per il sistema, a meno che non sia la cassa rurale di Vatte la Pesca, la scopriamo solo quando ci sono i problemi, per cui sono tutte rilevanti, non è che solo le prime cinque siano rilevanti. Se salta una banca popolare regionale è che non è rilevante, per cui anche lì prendere un gruppetto, fargli stress test, dare le cifre complessive e lasciare che poi il mercato speculi non mi sembra una gran scelta. Grazie, non la richiamo dopo. Lei, può succedere una volta che lei e io siamo d'accordo, no? No, ma non lei, l'ospite. No, sa che perché è divertente. Dentro logicamente cerco sempre di fare l'avvocato del diavolo, però questa volta non ce la faccio. Grazie ancora a Donato Masciandaro e adesso cambiamo tema, ma restiamo sempre su temi di carattere europeo, e cioè c'è chi parla già di una nuova IRI, non andrei così netto sul tema, però sicuramente è arrivato il decreto che dà pieni poteri al Tesoro e quindi la Cassa Depositi e Prestiti per salvare, o meglio blindare, le imprese italiane private ritenute strategiche o per il settore o per l'alto livello occupazionale. Il Consiglio dei Ministri autorizza il Ministro dell'Economia e delle Finanze a predisporre e attivare strumenti di finanziamento e capitalizzazione analoghi a quelli in essere in altri paesi europei, mirati ad assumere partecipazioni in società di interesse nazionale rilevanti in termini di strategicità del settore e di livelli occupazionali. Questa è la nota di Palazzo Chigi, che precisa che Parmalat è inclusa nella casistica di cui sopra. Professor Gianmaria Grospietro, economista e attualmente presidente di Federtrasporto Confindustria, buonasera. Buonasera. Insomma, lei dal 97 al 99 ha guidato la liquidazione dell'IRI, era presidente, e poi è stato dal 99 al 2002 presidente dell'ENI e poi presidente invece a livello privato di Autostrade per l'Italia. Prima domanda, poi andiamo sull'analisi. Secondo lei stiamo creando le premesse per una nuova IRI? Assolutamente no. Questo provvedimento bisognerà poi vedere come verrà usato, ma ricalca strumenti che sono in uso in altri paesi ad economia di mercato ed è completamente diverso dalla struttura che aveva l'IRI, dalle modalità con quale l'IRI fu creata e spero anche dalle modalità con le quali viene gestita. Non dimentichiamo che quando si decise che l'IRI doveva essere privatizzata si era molto allontanata dal modello originario e molte delle sue finanziarie e delle società controllate producevano perdite. Quindi no, non sarà una nuova IRI. Poi c'è il tema di cosa è strategico, e le dico perché, professor Grospietro, perché da un lato alcuni ascoltatori scrivono al 349-238-6666, ma insomma, perché la Buitoni a suo tempo non fu strategica, la San Pellegrino, prima abbiamo avuto l'ospite, il capo delle relazioni industriali della Nestlé, la San Pellegrino no, l'Acquapanna no, Bulgari no, la ex Fiat Avio no, e adesso invece Parmalat diventa strategica. Interessante anche sentire, molto breve l'intervento, che cosa ne pensano gli agricoltori, o meglio il presidente della Coldiretti Marini, al microfono del collega di Radio Cori Sole 24 Ore Nicola Filippone, alla domanda: è strategica la Parmalat? Per noi Made in Italy innanzitutto è lavoro e materia prima italiana, poi è fabbrica in Italia e poi in ultimo è la proprietà italiana, perché la proprietà italiana in una fabbrica che compra prodotto all'estero o che addirittura delocalizza evidentemente non ha nulla di italiano. Per cui se il progetto industriale della futura Parmalat prevede latte italiano e lavoro italiano, allora è tutela del Made in Italy, altrimenti è tutela di un marchio che non ha niente a che vedere con il nostro paese, anzi potrebbe essere addirittura concorrenza sleale per il nostro paese. Per cui su questo, sulla strategicità dell'agroalimentare, bisogna essere molto attenti. È strategica l'agricoltura, il lavoro italiano, poi il marchio italiano, poi l'industria italiana e solo infine la proprietà italiana. Gli agricoltori nel caso di Parmalat dicono: beh, dipende, se tu mantieni le quote di latte italiano e la produzione in Italia sei strategico, se tu vai a comprare all'estero anche se la proprietà è italiana no. E facevo l'esempio opposto della Nestlé, che si è comprata marchi italiani ma obiettivamente li ha valorizzati, non li ha distrutti, non ha portato la San Pellegrino dentro le acque naturali straniere. E quindi? E quindi quello che conta è la qualità dell'impresa. L'esempio di Nestlé è un esempio veramente interessante, perché i marchi che lei ha citato, da quando sono dentro Nestlé, si trovano facilmente in tutti i ristoranti internazionali, cosa che prima non accadeva. Quindi sono stati valorizzati, nello stesso tempo si tratta di attività non delocalizzabili perché sono legate a una fonte. Quindi questo risponde bene alla domanda perché quelli non erano strategici. Che cosa deve essere, che cosa deve avere un'impresa per essere considerata strategica? Ma io credo che la prima cosa che noi dobbiamo chiedere a un'impresa italiana sia quella di essere un'impresa di successo. Quindi ritorniamo al concetto di qualità dell'impresa. Se l'impresa è di successo e compra il latte in Francia, sarà perché le conviene, è economicamente meglio comprare il latte in Francia e in così facendo si conservano all'Italia i vantaggi di avere qui la testa di una grande impresa. Poi magari possiamo parlare di quali sono, ma chiunque può capire che se la grande impresa ha sede nel paese, riversa sul paese dei vantaggi. Ciò che invece potrebbe essere non desiderabile è che una grande impresa a capitale straniero compri il latte all'estero non perché è più conveniente per l'impresa, ma perché è più conveniente per i suoi capitali di controllo e per il territorio di origine. Ho capito il ragionamento, ci mancherebbe, però fanno notare gli ascoltatori, ripeto, il mio compito è sempre quello di fare il bastian contrario, ma insomma Wind se n'è andata telefonia tranquillamente, Omnitel aggiungo io se n'è andata tranquillamente, a Vodafone della numero 3 a livello europeo nelle telecomunicazioni mobili, Frette se n'è andata, La Perla è andata, Bulgari è andata, PAM è andata. Allora, cioè, com'è che adesso iniziamo a dire che l'alimentare è un settore strategico? Secondo lei perché ci si è resi conto che se avanti così, vista la struttura della nostra impresa, poco capitalizzata, di medie e piccole dimensioni, ci compravano gli stranieri? E ha un senso questo ragionamento in Europa? Ma ci sono due considerazioni da fare. Una è che avendo sempre creduto nella virtù del mercato, anche perché fino a un certo punto ci è stata imposta, lei citava l'esperienza IRI, non dimentichiamo che uno dei motivi per cui l'IRI fu liquidato fu che ce lo imponevano degli accordi internazionali, i famosi accordi Andreatta Van Miert. Ci abbiamo sempre creduto, tuttavia abbiamo potuto osservare con il tempo che siccome i mercati non sono perfetti e non sono efficienti, non è sempre vero che quello che fanno le imprese è nel maggiore interesse e del sistema a cui appartengono e anche solo dell'impresa stessa. e quindi può accadere appunto che un'impresa compri all'estero non perché è più conveniente per l'impresa stessa, ma perché è più conveniente per i suoi azionisti. Allora conta la differenza tra un azionista e l'altro. C'è stato un cambiamento di opinioni e nello stesso tempo c'è stato un cambiamento del quadro circostante, cioè la situazione di crisi globale in cui stiamo vivendo, l'emergere dei fondi sovrani, la ridistribuzione dei ruoli a livello internazionale fa sì che tutti i paesi siano un pochino più attenti a come si uscirà dalla crisi e naturalmente la presenza di grandi imprese ha un suo rilievo. Sì, però a parte il fatto che la quota di presenza italiana, di presenza straniera in Italia, di società controllate dagli stranieri è molto più bassa, è meno della metà di quanto non avvenga in Francia o in Gran Bretagna o in Germania, cioè noi non siamo un paese così colonizzato, anzi c'è chi dice magari arrivassero gli stranieri a mettere capitali e soldi. Faccio notare però che quando Prysmian ha fatto una gara per comprarsi un gioiello danese e diventare il numero uno al mondo nel settore cavi, mi riferisco a Draca, lì la Danimarca non è che abbia alzato barriere e i cavi possono essere considerati sicuramente un settore strategico almeno quanto il latte e i succhi di frutta, no, professor Grospietro? Cioè non c'è il rischio. Io capisco l'esigenza di difendere Romano Prodi, nostro ospite la settimana scorsa, ha detto sono d'accordo con Tremonti, su alcuni settori bisogna dare la protezione, però per quello che sì, Draghi è olandese, non danese, ci mancherebbe, ma non c'è il rischio di far saltare il meccanismo della libera circolazione dei capitali in Europa in questo modo? Cioè, dove poniamo il paletto poi, sullo strategico o no? Questo è proprio... Questa è una domanda alla quale non si può dare una risposta valida sempre. Io ripeto, la cosa importante è la qualità delle imprese. Se noi abbiamo un'insufficiente presenza di capitale estero nel nostro sistema, è anche perché non abbiamo un numero sufficientemente elevato, una percentuale sufficientemente elevata di imprese di qualità. E certamente impedendo al capitale estero di venire in Italia, noi non aiutiamo l'aumento della qualità delle imprese, quindi bisogna fare molta attenzione che l'uso di questo strumento di cui stiamo parlando ha due tagli e bisogna fare attenzione a dove si pongono i paletti. Certo è che siccome abbiamo un numero limitato di imprese di qualità e soprattutto un numero limitato di imprese grandi, non si può assistere tranquillamente al fatto che ci sia uno squilibrio nelle entrate e nelle uscite, cioè nelle acquisizioni che il capitale estero fa in Italia rispetto a quelle che l'Italia fa in aziende e in imprese di altri paesi. Sì, lei che conosce la storia dell'economia molto meglio di me sa benissimo che il declino di alcune economie, tra cui anche la Gran Bretagna, inizia nel momento in cui tu ti vai a proteggere, ma anche della Serenissima Repubblica di Venezia, cioè nel momento in cui tu alzi le barriere, i dazi, non metti le tue imprese in competizione, parte un declino poi inesorabile. Perlomeno questo ci insegna la storia. Non c'è paese che abbia saputo competere a livello mondiale proteggendo con le barriere le sue imprese. Un'ultima domanda però, che è anche una mezza provocazione, ma sulla base di questo principio, visto che sono anche le imprese con alti livelli occupazionali, questo discorso potrebbe valere anche per la Fiat se Marchionne decide di portare la testa a Detroit? Ritorno al concetto di qualità dell'impresa, e cioè se la Fiat acquisisce il controllo di Chrysler, cambia la qualità dell'impresa? Io sono convinto di sì, perché Fiat più Chrysler possono arrivare a quel livello dei 6 milioni di vetture all'anno, che è quello che consentirà di rimanere nella cerchia ristretta di quelli che saranno i grandi produttori mondiali, che potranno avere un ruolo rilevante anche nei mercati in crescita. A quel punto si ripropongono tutti i problemi di scelta, compreso quello della sede, che vanno affrontati sulla base della convenienza, della qualità dell'impresa, della sua possibilità di crescere, ma senza, in questo caso, senza avere il condizionamento negativo che eventualmente le scelte vengono prese non nell'interesse dell'impresa, ma nell'interesse di un paese terzo. Sì, comunque io capisco bene il suo ragionamento, capisco anche da quello che lei dice che insomma qui o mettiamo dei paletti molto molto chiari alle imprese rilevanti, occupazionalmente rilevanti, o se no da domani arriva la lista a Gorno Tempini, la Cassa Depositi e Prestiti, di chi vuole la quota di Stato. Io, se fossi un'impresa, se lo dico come un paradosso, cercherei anche di organizzare un acquisto da fuori per poi far entrare dentro il capitale della Cassa Depositi e Prestiti, perché insomma quello è il capitale ipergarantito. Ma era chiaramente una battuta. Grazie a Gian Maria Grospietro, economista e presidente di Federtrasporto Confindustria. Ed è veramente tutto per questa puntata. Adesso vi lascio alla nostra programmazione. Noi torniamo con Focus Economia domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.